24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qua alle 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9, riparte una settimana di 24 mattino, siamo anche sulla nostra pagina Facebook a 24 mattino, c'è già il nostro Alessandro Longoni, ben sveglio in redazione, pronto a scrivere. E allora anche Peter Bescapè in regia, siamo qui fino alle 9, di cosa parleremo più avanti? Parleremo di politica, sapete che sui giornali continuano da più parti le richieste da parte di qualcuno al Premier Berlusconi di fare un passo indietro, faccia un passo indietro per il bene del paese, questo chiede l'opposizione, ma qualcuno anche all'interno del proprio schieramento di maggioranza. Allora di politica parleremo, il passo indietro del Premier, che ne pensate? Ne parleremo dalle 8:20, ci sarà anche l'onorevole Buttiglione, colui che per primo ha chiesto il passo indietro del Premier in cambio di un salvataggio, una sorta di salvacondotto, qualcuno ha detto salvataggio, per quel che riguarda i processi che lo riguardano. In ogni caso ne parleremo più avanti, ora da cosa iniziamo? Come al solito dalla lettura dei giornali che trovate in edicola. In questo lunedì 12 settembre le aperture dei quotidiani intanto sul Sole 24 Ore, in comune un fisco parallelo, uno speciale sulla manovra ai mercati, ai sindaci, promesso il 100% delle maggiori entrate ma finora non hanno ricevuto nulla. Ma le aperture sono soprattutto sull'11 settembre, all'indomani della ricorrenza dei 10 anni, l'anniversario della tragedia delle Torri Gemelle. Obama, non abbiamo più paura, così apre il Corriere della Sera, mentre per Repubblica, America, il dolore e la speranza. Per la Stampa è il giorno della rinascita, questo è il titolo, il virgolettato di Obama. Per il Messaggero, America, silenzio e lacrime. La rivincita e il dolore, questa è la foto invece è l'apertura del quotidiano nazionale. Mentre il giornale sceglie se queste sono vittime e mette Michele Santoro e Gianfranco Fini in prima pagina, l'Unità invece apre per chi suona la campanella, oggi riapre la scuola con, scrive l'Unità, tagli, classi sovraffollate, buchi negli organici, un inizio con troppi ostacoli. Ma le segnalazioni da cui voglio partire, la prima davvero è tra lo spassoso, il divertito, lo sdegnato, dirà subito qualcuno, ma bisogna sempre prenderle con un sorriso, magari amaro, queste notizie, e riguarda la notizia sul ministro Giancarlo Galan, ministro alla cultura, che bisogna dire un antefatto. Ieri in un'intervista al Fatto Quotidiano, dopo aver parlato di cose molto serie, ha detto: ora confesso una cosa. Io non sono parlamentare, il mio stipendio è di 6.000 euro, pago tutti i viaggi di andata e ritorno a casa, ma siccome non ho la tessera parlamentare, quando mi devo tagliare i capelli alla Camera, chiedo alla mia collega e amica, l'onorevole Giustina Destro, deputata del PDL, di prestarmi la sua tessera. E allora oggi ci torna Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, pagina 11. La Destro e il tesserino prestato a Galan, così entra in barberia. Insomma, scrive Roncone, un ministro della Repubblica, chioma nera, folta, pettinata all'indietro con sospetto ausilio di acqua, pur non avendo il diritto, o il privilegio se volete, di frequentare la celebre barberia della Camera, si farebbe prestare il tesserino di parlamentare da una donna. La sua amica è deputata Giustina Destro. Deve essere una burla. Forse è una burla. Speriamo sia una burla, scrive Roncone. 3 squilli di telefono e risponde l'onorevole Giustina Mistrello Destro. Beh sì, credo che almeno una volta sia successo. Come? Davvero lei ha prestato? Ma sa, Galan, siamo molto amici, siamo entrambi di Padova. Sì, gli ho prestato il tesserino per entrare dal barbiere. Ma mi scusi, onorevole, abbia pazienza, lei è una donna, sul tesserino ci sarà la sua foto, la foto di una signora. Vabbè, ma vuole che a un ministro controllino il tesserino? In ogni caso, guardi che il tesserino non gliel'ho mica prestato solo io, sa? Ah, no? No, no, credo che ogni tanto glielo prestino anche altri suoi amici deputati. Ma davvero le sembra una cosa tanto grave? Grave no, chiede Roncone, però magari ammetterà che questa idea di imbucarsi dal barbiere della Camera col tesserino falso di una deputata è almeno imbarazzante. Mi dia retta, concentriamoci sui problemi gravi che il paese vive in questo momento. Così si conclude questa chiacchierata. Allora Galan si fa prestare il tesserino per entrare dal barbiere e risparmiare quei 10 euro, credo, alla camera, ma è una questione forse di comodità, di praticità. E la seconda segnalazione, c'è poco da sorridere anche qui, ma a me ha fatto sorridere leggere una pagina intera sul giornale. Nino Materi racconta, pagina 14, è nato l'outlet del funerale, dove morire conviene sempre. Voi pensate che l'outlet possa riguardare soprattutto, che ne so, i mobili, no? Si parla di IKEA, vendere i prodotti nell'outlet. Ora a Sesto San Giovanni è nato con un capannone l'outlet del funerale. All inclusive a 1.499 euro, un'opportunità da cogliere al volo. Vabbè, si fa per dire, scrive Nino Materi. Fatto sta che ci sono le offerte, funerale completo, considerata il fiore all'occhiello della ditta, ripeto, 1.499 euro, ma c'è anche il servizio per VIP a 7.000 euro. C'è poi, non so, il funerale elegante a 2.499 euro, tutto incluso. E ovviamente i proprietari dicono: il passaparola è stata la nostra migliore pubblicità, siamo gente molto professionale, offriamo anche per esempio alle persone sensibili e preparate che assistono i parenti del defunto a superare lo shock successivo alla perdita di un proprio caro. In ogni caso la novità per il caro estinto è questo: nel Milanese a Sesto San Giovanni è nato l'outlet del funerale. Se volete un funerale all inclusive, bara, esequie, assistenti di conforto, bastano 1.499 euro e morire ovviamente. 24 mattino. Eccoci qui, ci siamo alle 7.35 minuti, continuiamo allora la lettura dei giornali in edicola. Io vorrei partire dalla politica perché ci sono due notizie che vengono sviluppate dai giornali. La prima, come detto, è quella del tema un po' del nostro approfondimento più avanti, delle 8:15, vale a dire il fatto che da più parti si chiede a Silvio Berlusconi, ovviamente soprattutto dall'opposizione, un passo indietro in cambio di una pacificazione anche politica. E poi la seconda notizia è quella che nel weekend soprattutto è andata su tutte le prime pagine dei giornali, il fatto che Berlusconi martedì non incontrerà i magistrati di Napoli che stanno indagando per una presunta estorsione ai suoi danni. Lui è in veste di parte lesa. Non ci sarà però questo incontro perché Berlusconi deve andare a Strasburgo per parlare della manovra. Su questo viaggio, racconta il Corriere della Sera, Berlusconi all'inchiesta "Io a Strasburgo per l'Italia", si è adirato leggendo i giornali Berlusconi, leggendo quelle insinuazioni che gli risultano insopportabili, cioè che lui andrebbe in Europa a incontrare le istituzioni comunitarie perché deve scappare dai magistrati, perché non vuole rispondere alle domande dei PM di Napoli. Così racconta Marco Galluzzo a pagina 8. Ieri chi l'ha sentito al telefono ha ascoltato un fiume in piena. Ci manca solo che i magistrati vengano prima della crisi finanziaria, ma fatemi il piacere. Così avrebbe detto Berlusconi. Un Berlusconi dunque arrabbiato che ieri ha postato tra l'altro un audio sul sito dei promotori della libertà, ha parlato della manovra, una manovra che ha salvato l'Italia, ha detto il Premier, soltanto ai contribuenti più facoltosi. Con redditi tra 300.000 euro in su è stato chiesto un onere del 3% ed è l'unica eccezione al principio che ho sempre rispettato di non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Così Berlusconi sulla manovra, ma anche sulla stampa, racconta Ugo Magri nel suo retroscena politico, c'è uno sfogo del Cavaliere sul viaggio in Europa, tutte menzogne. Un Berlusconi che è definito parecchio rammaricato, per usare un eufemismo, per come i giornali, in special modo tutti i media in generale, hanno presentato la sua trasferta di domani a Bruxelles e Strasburgo. Cose da non credere, avrebbe detto Berlusconi, cioè dire che fuggo dai magistrati. Magistrati che con il procuratore capo di Napoli, Giovan Domenico Lepore, si fanno sentire sul Corriere della Sera. Fiorenza Sarzanini lo intervista, pagina 10. Troveremo un'altra data, non c'è bisogno di costrizioni, così dice Lepore, che ribadisce: nel nostro processo Berlusconi è parte lesa. Io penso sia un suo interesse fornirci la propria versione dei fatti. Finora non mi è mai capitato che una parte lesa si sottraesse alle domande dei magistrati. Del resto era stato lui a indicarci la data di martedì 13 settembre. Ora attendiamo la rinuncia scritta da parte del suo avvocato di indicarci contestualmente una nuova data. Se questo non accadrà, stileremo noi una rosa di giorni e su quelli bisognerà prendere una decisione, perché i tempi sono molto stretti. Perché, procuratore, i tempi sono stretti? Risponde Lepore: dalla deposizione del Presidente del Consiglio dipendono molte circostanze legate all'inchiesta. La più importante riguarda il destino di due persone che sono attualmente detenute per estorsione. Per questo è necessario chiarire le modalità dei fatti, soprattutto per quel che riguarda la consegna dei soldi. E Lepore poi dice: siamo convinti che la competenza sia dei magistrati di Napoli, abbiamo seguito seguendo le regole, abbiamo diciamo agito seguendo le regole come sempre accade. E riguardo alla fuga di notizie sia su Panorama, che lo anticipò a fine agosto, sia sull'Espresso, che ha pubblicato questa intercettazione nella quale Berlusconi parla con la Vitola dicendo presumibilmente resta lì dove sei, dice Lepore, sono tutte cose che vanno a danno della nostra inchiesta, quindi per questo escludo che siano uscite dal mio ufficio, sono servite solo esclusivamente a danneggiare noi e le nostre indagini. Sta di fatto, insomma, che c'è questa polemica per questo viaggio di Berlusconi. C'è una polemica che il Foglio, con l'editoriale di Giuliano Ferrara in prima pagina, critica duramente: le assurde risate che tengono in ostaggio la fantasia di un paese. Questo è il titolo dell'editoriale di Ferrara, che scrive: verrà il giorno della vergogna. Siccome nessuno ha il coraggio civile di vergognarsi adesso, sarà la comunità nazionale, per bocca dei suoi storici e interpreti più autorevoli, a sancire in futuro che questa fu l'epoca del guardonismo e dell'origliamento. Si può stare nel fango, nella palta, nella merda con la testa fuori dal pelo della vasca, ma affondare in una bovazza e tuffarsi in una pozzanghera e nuotarci in immersione per anni, questo è l'inaudito che viviamo. Attraverso la falsa procedura di un accertamento di reati inverosimili, toghe faziose, magistrati prime donne, giornali goduriosamente tabloid tengono in ostaggio la fantasia di un grande paese. Così dice Giuliano Ferrara, che conclude il suo editoriale: un mondo perfettamente trasparente sarebbe invivibile per tutti. Metteremmo, se fossimo perfettamente trasparenti, la parola fine alle nostre passioni, all'amicizia, all'amore, al coraggio, alla paura. Diventeremmo strani animali artificiali, incapaci di creatività, privi del diritto al sortileggio e al magheggio della vita quotidiana. Vivremmo un delirio di intrusività senza capo né coda. Berlusconi in fondo è solo un leader da abbattere con mezzi rozzi e semilegali, ma il modello civile dell'origliamento e dello spionaggio nella vita privata è qualcosa di mostruoso che ci riguarda. Così Giuliano Ferrara. Sta di fatto che, ripeto, continua a emergere un'onda sempre più alta di avvisi, di consigli, di inviti al presidente Berlusconi di fare un passo indietro. Ha cominciato qualche giorno fa Pisanu, il presidente della commissione antimafia, uno dei fondatori di Forza Italia, e quindi un PDLino, a dire: Berlusconi, faccia un passo indietro. Poi è arrivato Rocco Buttiglione in un'intervista dell'UDC, in un'intervista ad Avvenire: Berlusconi, faccia un passo indietro, noi gli garantiremo tranquillità dal punto di vista dei processi penali. Buttiglione, che sarà nostro ospite alle 8:20. Ieri Fini, il presidente della Camera, è tornato: è finito il berlusconismo, è la fine del regno, l'Italia ha bisogno di un nuovo premier. Così ha detto Fini, che però anche lui ribadisce: non mi dimetto dalla presidenza della Camera, ma certo inizierò ad andare in mezzo alla gente. Ieri anche il presidente dell'UDC, o un altro esponente dell'UDC, Cesa, il cavaliere aiuti il PDL facendo un passo indietro. Insomma, questo tema è un tema che politico che emerge nettamente in questo momento, tanto che il retroscena più interessante su questo è di Repubblica, di Claudio Tito. Secondo Repubblica, due persone, le uniche due indicate dal Corriere della Sera nei giorni scorsi in grado di poter affrontare questo discorso, vale a dire Gianni Letta, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e Fedele Confalonieri, il presidente di Fininvest, avrebbero parlato, e grande amico di Berlusconi, ne avrebbero parlato per la prima volta con il premier in persona. Exit strategy per il premier, questo è il titolo del retroscena politico di Claudio Tito in prima pagina su Repubblica. Ragioniamo su una exit strategy. Pensarci, se concordi, un'uscita la puoi trattare. Soprattutto il clima di assedio si attenuerà solo per il fatto che non stai più a Palazzo Chigi. Devi pensarci. Queste sono le parole che, secondo Repubblica, sia Gianni Letta, sia Fedele Confalonieri, gli amici di sempre, gli unici in grado di rivolgersi al Cavaliere senza dover temere l'accusa di tradimento o di intelligenza con il nemico, avrebbero rivolto a Berlusconi. Entrambi lo hanno esortato a considerare un percorso che lo guidi fuori dalla presidenza del Consiglio, senza scossoni e soprattutto con un iter concordato in tutti i suoi aspetti. Hanno rotto gli indugi la scorsa settimana e non è un caso che Confalonieri abbia esposto le sue riflessioni all'amico Silvio mercoledì scorso, dopo un lungo faccia a faccia con il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. La risposta di Berlusconi sarebbe questa: io non mollo, voi dite che l'assedio si dissolverà, io invece penso che mi porterebbero direttamente in galera. Insomma, la parola d'ordine a Palazzo Grazioli resta per ora una sola: resistere. E questo è il refrain berlusconiano, ma chissà se è fantapolitica, chissà se invece è davvero successo. Gianni Letta e Fedele Confalonieri avrebbero detto a Berlusconi: prepariamo una exit strategy, pensaci, e lui avrebbe risposto: no, così finirei in galera, perché non certo si placherebbe l'assedio nei miei confronti. Stiamo a vedere cosa succederà. Certo, nella settimana in cui giovedì pare verranno rese pubbliche, perché depositate, le nuove carte sull'inchiesta che coinvolge Tarantini a Bari, e lì qualcuno dice ne vedremo delle belle o delle brutte. E allora eccoci, ovviamente è anche la settimana della manovra che arriva alla Camera dopo l'approvazione al Senato. Ieri su Libero c'era scritto che si prepara una manovra corretta, staremo a vedere se invece sarà quella approvata e uscita dal Senato. Certo, sul Sole 24 Ore ci si concentra oggi nell'edizione del lunedì su quella che è la lotta all'evasione, le incognite dei comuni. Questo è il titolo a pagina 3 con Giovanni Parente, che racconta l'opportunità dei comuni, perché i comuni dovranno decidere ora se credere davvero nella possibilità di diventare le sentinelle sul territorio della lotta all'evasione, ma non dipende tutto da loro, il cammino sembra ancora disseminato da incognite. Certo, la posta in gioco è molto alta, perché c'è stato il raddoppio rispetto al 50% di prima del fatto che le imposte rimarranno tutte ai comuni, cioè le imposte che i comuni riusciranno a raccogliere grazie alle segnalazioni di evasori fiscali rimarranno per il 100% a loro disposizione. Questa è dunque una grande occasione, anche se dall'altra parte Gianni Trovati a pagina 2 fa sapere che il premio ai sindaci, che è stato raddoppiato nella manovra, per ora in realtà resta fermo a quota zero. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che per ora i comuni hanno ottenuto la promessa di ottenere il 100% dei soldi che recuperano dalla lotta all'evasione fiscale. Sta di fatto che i pagamenti introdotti dalla riforma del 2005, dunque quelli che spettavano ai comuni finora, ne hanno visti 0 euro per ora. Racconta, è un po', sono le doppie facce dell'Italia, no? Quella dei premi ai comuni, scrive Gianni Trovati, che si alleano con il fisco nella lotta all'evasione, è una marcia trionfale: 30% nel 2005, 35%, poi 50%, ora il 100%. Certo, avviare la macchina non è semplice, nei primi anni di vita la norma è rimasta sospesa, poi il meccanismo è partito, ma sta di fatto che al momento, di tutti i soldi che i comuni hanno raccolto, hanno ottenuto la promessa solo di avere dei soldi, ma dallo Stato centrale sono arrivati 0 euro. E invece un altro aspetto della manovra è quello che si concentra sul cosiddetto contributo di solidarietà, no? Il 3%, la super IRPEF del 3% per chi ha i redditi sopra i 300.000 euro. Già, ma chi in Italia ha i redditi sopra i 300.000 euro? Questa è la domanda da porsi. Si è scoperto che sono circa 30.000 i contribuenti italiani che dichiarano oltre questa cifra. Oggi il Sole 24 Ore ne fa una mappa in Italia, sono 32.916 per la precisione. A pagina 9, super ricchi, asse Milano-Roma, percentualmente il 35% di questi super ricchi, 11.448 per la precisione, sono in Lombardia. Dunque il 35% della super IRPEF sarà in Lombardia, il 15% nel Lazio. Dunque metà di tutti questi super ricchi sono soprattutto in Lombardia e in Lazio, e poi per il resto si sparpagliano un po' in tutta Italia. Ce ne sono 2.600 in Piemonte, pari all'8%. In Liguria sono al 3%, ci sono regioni in Campania, il 3,27%, sono solo 1076, ci sono regioni come in Calabria, ce ne sono solo 202, in Basilicata sono in 48. Comunque trovate tutta la mappa a pagina 9. Nel ricco Veneto sono 2781 coloro che dichiarano oltre 300.000 euro, vale a dire l'8,45% del totale. Ripeto, trovate tutta la mappa, così come sul Sole trovate oggi un interessante inserto di 8 pagine, una guida dal titolo molto interessante di sti tempi: trovare lavoro. Ecco le mosse vincenti per la caccia al posto. Giovani, donne, over 40, dal recruiting al colloquio, ecco tutte le strategie per cogliere l'occasione giusta. Beh, ve lo segnalo, lo trovate come guide del Sole 24 Ore, 8 pagine dal tema trovare lavoro. Trovate tantissimo, non l'ho segnalato forse con colpa, ma trovate tantissimi articoli, l'apertura praticamente di molti quotidiani sulle celebrazioni dell'11 settembre, la ricorrenza 10 anni fa, esattamente ieri. C'è anche un articolo di Roberto Saviano su Repubblica che vi voglio segnalare, da New York, dunque era Ground Zero Saviano. Il pianto di una madre italiana, Laura, mi manchi tanto, questo è il racconto che trovate in prima pagina di Repubblica. Ma siccome sono in rapida chiusura, beh, torna Santoro, torna Santoro. Ieri ha annunciato Santoro che tornerà con una TV un po' strana, ancora da sistemare, un po' in streaming, un po' mettendo insieme vari editori, forse anche un canale di Sky, e poi facendo una colletta vera e propria. Santoro ha chiesto 10 euro, se ci date ognuno 10 euro... cari italiani, se volete dare 10 euro a Santoro per fare questa TV... ecco qui, non so, forse seguirà estremi del bonifico. Santoro, datemi 10 euro per i comizi d'amore. Ha preso il titolo, un titolo pasoliniano, Comizi d'amore, così si chiamerà la sua nuova trasmissione. Il giornale ironizza molto, se queste sono vittime, mette insieme Gianfranco Fini, ma anche il milionario Santoro che chiede 10 euro per tornare in TV. Santoro esce milionario dalla Rai, ma fa la colletta per tornare in TV. Sta di fatto che torna Michele Santoro. Vabbè, concludiamo qui. È ripreso il campionato di calcio. Non so, mi saluta con un gesto strano Peter, mostrandomi una mano a cui manca un dito. Sono 4 dita, non capisco. Comunque, bella Juve. E l'Inter invece ha perso, complimenti al Palermo, 4-3. E Gene Gnocchi, voglio concludere con lui, ironizzerà molto secondo me sugli americani a Roma, Roma, gli americani sempre più confusi dopo la sconfitta con il Cagliari, dobbiamo provare di più il tiro da tre. Questo Gene Gnocchi sulla Gazzetta 24 mattino. Allora, sono le 8:20 minuti, rientriamo in diretta con 24 mattino. Parliamo dunque di politica, perché c'è un tema politico che sta emergendo in questi giorni da più parti, vale a dire si chiede da più parti a Berlusconi un passo indietro per il bene del paese, un qualcosa che il premier più volte nelle varie retroscena politici rifiuta e dice assolutamente no. Ne parliamo con l'onorevole Rocco Buttiglione, che saluto. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, lei è stato uno dei primi a dire in questa intervista ad Avvenire, che ha suscitato anche un dibattito politico, cosa ha proposto? Berlusconi faccia un passo indietro per il bene del paese, perché dovrebbe farlo? Dovrebbe farlo perché non è in grado di svolgere la sua funzione efficacemente a servizio dell'Italia. Non stiamo a vedere per colpa di chi, sarà per colpa sua, come dicono molti, sarà per colpa mia, sarà per colpa sua, direi, che dirige questa trasmissione, non lo so per colpa di chi, ma il dato di fatto è che Berlusconi non ha in Europa il credito necessario e anche all'interno della sua coalizione non è in grado di tenerla unita. Avete visto che pantomima c'è stata con la manovra, l'abbiamo annunciata, poi l'abbiamo cambiata, era una manovra all'inizio appena sufficiente a farci riguadagnare la fiducia dell'Europa. Poi dopo tutta la coalizione di governo si è andata a fare per indebolirla. Devo dire che anche una parte dell'opposizione non ha brillato, perché in un momento così difficile per il Paese una manifestazione contro una manovra comunque necessaria non ci ha fatto bene. Cioè lo sciopero, sta dicendo, lo sciopero. Lo sciopero non è stato una cosa, non ci ha danneggiato. Allora, in una situazione così, cosa fa una persona che ama l'Italia? Si dimette e dice: scegliamo insieme una persona e un governo nuovo, fortissimo, fortissimo, in cui tutti siano coinvolti, in cui nessuno possa sfuggire alle responsabilità. Uno potrebbe domandare: ma perché abbiamo tanto bisogno della fiducia dell'Europa? Perché siamo, mi fa fatica a dirlo, tecnicamente in fallimento. Siamo tecnicamente in fallimento. La situazione del Paese è tale che o riusciamo a convincere l'Europa ad appoggiarci seriamente e facciamo scendere il livello dei tassi di interesse sul nostro debito, oppure non avremo i soldi per pagare gli impiegati dello Stato, non avremo i soldi per pagare le pensioni. E tutti dovremmo essere consapevoli della gravità di questa fiducia. Però, onorevole, lei è andato avanti oltre in questa proposta dicendo anche faccia un passo indietro e noi gli garantiremo che i processi penali verranno bloccati. Qualcuno ha detto: ma cos'è un salvacondotto? Pare che Berlusconi abbia anche detto in un retroscena: mi trattano come i fascisti, ho bisogno di un salvacondotto come Mussolini, ma stiamo impazzendo. Perché lei ha fatto questa proposta? È lecito il dubbio che in questo momento il capo del governo si ostini nella sua posizione anche per una paura riguardo al futuro. Noi dobbiamo togliergli questa paura riguardo al futuro. Non ci saranno le vendette, non va al governo una maggioranza alla quale vuole la morte di Berlusconi. Non diamo un giudizio su Berlusconi. Il problema è che Berlusconi non è la difficoltà. Berlusconi è un ostacolo che ci impedisce di affrontare la difficoltà. E allora, togliamo questo ostacolo, garantiamo che il nostro non è uno spirito vendicativo, non vogliamo distruggerlo, vogliamo salvare l'Italia, che ci dia una mano a salvare l'Italia. Ma bloccare i processi cosa vuol dire? Cioè fare delle leggi per fermare tutto? Perché... Non lo so, su questo tutti dobbiamo fare una riflessione. In America c'è l'istituto del perdono del Presidente, in Italia questo istituto non c'è. Io credo che come prima fase quello che serve è da parte di tutti l'affermazione che non c'è uno spirito vendicativo. Il nostro problema non è regolare i conti del passato, il nostro problema è condurre l'Italia verso il futuro. Qualcuno ha fatto notare che per esempio c'è stata anche l'intervista di Beppe Pisanu, che sta venendo a mancare l'appoggio, vorrei darle questa lettura, di politici che sono anche vicini ad ambienti dell'estrazione cattolica, vicini al mondo della Chiesa. È una lettura che le piace, Buttiglione? Io credo che il popolo cristiano che c'è in Italia sia la grande riserva di valori di cui abbiamo bisogno per rinnovare la politica. C'è tutta questa polemica contro la classe politica: abbattiamo i privilegi, giustissimo, dobbiamo chiedere sacrifici al paese, cominci la classe politica per fare sacrifici, ma nessuno dice la cosa vera: bisogna sostituire almeno in gran parte la classe politica attuale. E dove attingiamo? Dobbiamo attingere al popolo cristiano, dobbiamo attingere all'associazionismo che sta nei mondi vitali, penso ai commercianti, agli artigiani, penso al sindacato, ai coltivatori diretti. C'è diffusa la percezione che finisce una fase, il berlusconismo, un ampio elettorato che prima era polarizzato da Berlusconi, oggi è in libertà. Dobbiamo rappresentarlo con un nuovo impegno del popolo cristiano e delle realtà dell'imprenditoria diffusa e del sindacato, almeno del sindacato che crede nel futuro dell'Italia ed è pronto a fare le riforme necessarie. Credo che il tema vero sia questo. Senta, ha visto le intercettazioni che pare possano uscire, nuovo giro di intercettazioni? Lei com'è di fronte a questa idea, cioè queste intercettazioni come la colgono? Ma se io, dovessero uscire? Primo dico che l'incivile che si intercetti una persona nelle sue conversazioni private e che queste conversazioni private, che non hanno nessuna risvolto criminale vengono poi date ai giornali. Secondo, il quadro che emerge da queste conversazioni è devastante e se vengono pubblicate danneggiano in questo momento il paese, perché emergono modi di essere, comportamenti, giudizi su grandi politici stranieri che ci stanno aiutando. Io non so se sono vere le cose che si dicono sulla Merkel, se fosse vera. La Merkel sta affrontando una tempesta nel suo paese, per l'Europa ma anche per l'Italia. Quando si dimette Jürgen Stark, rappresentante tedesco nella Banca Centrale Europea, in polemica col fatto che la Banca Centrale Europea sta sostenendo l'Italia, e la Merkel incassa senza niente dire nulla e nomina Asmussen, che è un amico dell'Italia, comunque uno che sta sulla linea difendiamo l'euro, difendiamo l'Italia, noi avremo motivi di riconoscenza. Se in questo momento venisse fuori che davvero il capo del governo italiano si esprime in un modo sprezzante e volgare sulla Merkel, io spero che non sia vero, mi auguro che non sia vero, ma se dovesse risultare che è vero, come fa una condizione così a fare ancora il capo del governo? Non si rende conto che danneggia drammaticamente l'Italia. E comunque, insomma, questo tema del salvacondotto fa molto discutere, no? Lei dice stiamo discutendo e si può vedere come salvare Berlusconi. Rassicurare che non c'è una volontà di vendette personali. È il contrario di quello che ha detto Berlusconi. Non siamo alla fine del fascismo, siamo a un normale cambio di governo e quindi non ci sono epurazioni da fare. Lo dico a Berlusconi, ma lo dico anche ai tanti nel partito di Berlusconi che sono convinti che noi abbiamo ragione, ma che si sentono legati a Berlusconi pensando ma non possiamo consegnarlo nelle mani dei suoi nemici. Sono tanti secondo lei? Sono tanti, non lo consegnate nelle mani dei suoi nemici, non c'è un problema di fedeltà personale, è un cambio di governo, non ci saranno vendette, abbiate il coraggio di fare quello che è giusto per il paese. Di dirglielo, perché il problema è questo, chi glielo va a dire? Pare che Letta e Confalonieri gliel'abbiano detto. Questo il problema è quello di chi glielo va a dire. Qualche volta il Popolo delle Libertà mi ricorda i socialdemocratici tedeschi nel 1918. Volevano fare la rivoluzione, ma volevano il permesso dell'imperatore per fare la rivoluzione. Non si fa la rivoluzione col permesso dell'imperatore, si fa la rivoluzione e si va dall'imperatore a dirgli maestà, c'è la rivoluzione, deve andare via. Io intanto la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Grazie. Prego, onorevole grazie Rocco Buttiglione dell'UDC. Ma noi, insomma, sulla scia anche di quello che ci ha detto Buttiglione, ne continuiamo a discutere tra poco con due ospiti politici di questo. Allora Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro, secondo voi? E per farlo si può anche addirittura arrivare a pensare a dargli un salvacondotto per i processi penali che lo riguardano? 800 24 00 24, cos'è, una proposta politica o è una pura fantascienza? Tra poco, dopo la pubblicità. 24 mattino. Allora, le 8:36 minuti, poco fa avete sentito l'onorevole Buttiglione ribadire quello che è il tema politico di questi giorni e dire Berlusconi faccia un passo indietro e da parte nostra, da parte di tutti ci deve essere la garanzia che non c'è nessuna voglia di vendetta, nessuna voglia di rivalsa nei suoi confronti. Insomma, ha rilanciato quell'idea del Berlusconi faccia un passo indietro e siamo pronti a garantire un salvacondotto per lui. Pare che, racconta oggi Repubblica, settimana scorsa Gianni Letta e Fedele Confalonieri, le uniche due persone, racconta Claudio Tito su Repubblica, in grado di parlare a Berlusconi senza essere accusati di essere dei traditori o di intelligenza col nemico, abbiano proprio proposto questo a Berlusconi: pensaci su, ragioniamo un exit strategy, se concordi un'uscita puoi trattare e il clima di assedio si attenuerà. Insomma, è un'ipotesi di fantapolitica o può essere un'ipotesi concreta? Ne vogliamo discutere con il sottosegretario Daniela Santanchè, che saluto, ben ritrovata e buongiorno Santanchè. Buongiorno a lei e a tutti. Così come saluto l'onorevole Francesco Pardi, Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora Santanchè, fantapolitica, stiamo discutendo del nulla, le pare verosimile che Letta e Confalonieri abbiano detto a Berlusconi pensaci? No, stiamo discutendo assolutamente del nulla, perché è un'ipotesi che non esiste, ma oltretutto stiamo discutendo di quello che non è il problema, perché mi sembra che oggi dobbiamo discutere della nostra situazione economica, dobbiamo discutere della crisi globale, dobbiamo discutere e trovare anche una come dire, una coesione per fare ciò che in questo momento serve al Paese. Cioè, rimango allibita quando sui giornali, nelle trasmissioni, si continua a parlare di Berlusconi. Ma crede veramente qualcuno che se Berlusconi lasciasse, se si cambiasse al posto di Berlusconi, arrivasse un altro, la situazione dell'Italia cambia? La situazione dell'Europa cambia? La situazione dell'euro cambia? A me sembra veramente che si cerca di spostare il problema. Non c'è un problema, secondo lei, di credibilità? L'onorevole Buttiglione dice non ha più credibilità in Europa. Per esempio, qualcuno tira fuori anche le intercettazioni. Dovesse essere vera quell'insulto ad Angela Merkel o quelle intercettazioni che potrebbero arrivare? Che credibilità abbiamo in Europa? Ma vedi, parliamo sempre di ipotesi, di cose. Quell'ipotetica intercettazione sul cancelliere Merkel, quell'ipotetica, io vorrei parlare di quello che è, non di quello che potrebbe essere, di quello che sembra, di quello che magari è. Cioè, intercettazioni, bene, parliamo del problema delle intercettazioni, che è un istituto, quello delle intercettazioni, che è assolutamente utile, ma che oggi c'è un abuso, che oggi una parte della magistratura agisce nell'illegalità, perché non si può intercettare il Presidente del Consiglio che è parlamentare. Allora parliamo dei problemi seri, non vogliamo far vivere tutti in quella rappresentazione del film La vita degli altri. Si sa che però non è lui direttamente intercettato, ma le persone che parlano con lui. Però lei dice è un metodo. Questa è la sua visione. No, beh, è così. Non si può fare. No, non si può. È un dato è di illegale. Fatto che non è. No, ma dico, è un dato di fatto che erano sotto controllo non il telefono di Berlusconi, ma di chi parlava con lui. Ma lei lo sa quello che dice la legge? Che se si intercetta una persona che parla con un parlamentare non si può utilizzare quell'intercettazione perché ci vuole l'autorizzazione della giunta a procedere. Cioè, ma voglio dire, ma perché vogliamo parlare di cose che non si possono fare e dare per scontato che invece si può? Non mi sembra questo un bel esempio. Però facciamo un passo indietro, vorrei anche dall'onorevole Pardi il commento su un tema che è politico, nel senso di dibattito da giorni, e sulla questione del dire faccia un passo indietro e noi garantiamo che non ci sarà alcuna vendetta personale, ma solo la questione di gestire una transizione di un periodo politico che sta per esaurirsi e dobbiamo pensare al futuro. Le pare un'idea sana oppure un salvacondotto che sarebbe immorale, una discussione politica sul nulla? Soprattutto una cosa difficilmente realizzabile. Perché? Per motivo elementare, perché siamo in democrazia ancora, nonostante Berlusconi abbia provato a demolire la separazione dei poteri, grazie al cielo non c'è riuscito, per cui la separazione dei poteri in Italia molto faticosamente c'è ancora, per cui se un'autorità politica dice faccio il salvacondotto, deve fare una legge apposta per fare il salvacondotto, non può pensare che si innesti una pratica spontanea. Eh beh, le leggi si fanno, materiale, però, le leggi si possono fare, le leggi, forse appunto, l'idea è proprio quella di fare. Bisognerebbe fare una legge che dica chiaramente: guarda, te è meglio se te ne vai, e noi, pur sapendo che dovresti subire 20 processi per falso in bilancio, corruzione, ricatto, 20, corruzione 20. Di minorenni, e più ne ha più ne metta, però diciamo chiaramente davanti al mondo che ti permettiamo di andartene. Io credo che questa è una cosa, sia una fantasia di Buttiglione alimentata dal fatto che obiettivamente Berlusconi non è più credibile. Cioè, quello che dice Buttiglione è vero a metà, Berlusconi non è più del tutto credibile, perché non è possibile che funzioni ancora come Presidente del Consiglio uno che dice ho fatto la manovra, ho fatto un miracolo. La manovra non l'ha fatta lui, l'ha costretto l'Europa, e se lo lasciavano fare lui faceva la prima manovra, quella che non serviva a niente e che la Rete 24 ha anche documentato, diciamo, con i suoi servizi giornalistici. Una manovra che era risibile perché stabiliva per il primo anno quasi nulla, per il secondo un po' meno e tutto scaricato sul terzo anno successivo. Quindi l'Europa è insorta e ci ha detto: guardate ragazzi, state sbagliando, bisogna che vi affrettiate. La crisi è precipitata, lui è stato praticamente precettato dall'Europa, dai mercati, dalle stesse forze politiche dell'opposizione, e a un certo punto è stato costretto, e così ha fatto il miracolo. Lei dice precettato dall'Europa. Questo io penso è l'aspetto più politico, più sostanziale, cioè è uno che agisce oramai sotto commissione, è un governo commissariato dall'Europa. Poi c'è l'aspetto che non è trascurabile, degli aspetti miserabili della sua vita privata, perché di fronte, come può essere credibile un Presidente del Consiglio che è ricattato dai lenoni che gli procurano le prostitute e lo ricattano in modo manifesto? Insomma, è vero che la vita privata è vita privata, ma se un Presidente del Consiglio è ricattato da chi gli procura le donne a pagamento, certo, non è una bella situazione. Insomma, la vita privata, ma onorevole Santanchè, l'approccio quindi è questo: la vita privata è privata, ma è il Presidente del Consiglio. Intanto vorrei dire che non si tratta di essere commissariati, ma che sappiamo bene che oggi la politica economica è sovranazionale, e dovremmo essere contenti che c'è una politica economica europea, perché questo si è sempre cercato di fare, no? Di avere una politica europea sull'economia, come già da qualche anno. Sì, però una gran figura con le manovre che cambiavano ogni 2 o 3 giorni, non è che l'abbiamo fatta. Ma guarda, proprio su questo sono assolutamente d'accordo, ma bisognerebbe capire che la manovra è anche un risultato di sintesi politica, che c'è una coalizione. Cioè, il presidente Berlusconi l'ha detto subito che bisognava intervenire sulle pensioni, che bisognava intervenire sull'IVA, ma siccome c'è una coalizione, quindi bisogna essere d'accordo, perché poi bisogna trovare i voti per poter fare le manovre, e quindi questo è stato il meglio della sintesi politica che si è potuto fare. Però bene, questa manovra ha di molto positivo, secondo la mia visione, che sicuramente, voglio dire, i modi ci hanno fatto male, perché gli annunci sui giornali poi dopo si ritrattava, perché c'era una discussione politica, quindi su questo io sono d'accordo. Però questa è una manovra che per la prima volta fa capire che cose che sembravano intoccabili non lo sono più. Le pensioni, ad esempio, che sembrava fossero intoccabili, invece con la questione delle donne oggi si può parlare di rivedere le pensioni. Però la tassazione, passare dalle persone alle cose, perché l'IVA è una tassazione sulle cose, è già un altro principio che sino a poco tempo fa sembrava impossibile poter però attuare. Le pensioni sono state toccate poco, anzi qualcuno dice proprio per l'opposizione di Bossi sulle pensioni principio, poi sappiamo tutti che in questo paese dobbiamo mettercelo in testa tutti quanti che bisogna andare in pensione più tardi, perché a 70 anni sarebbe giusto andare in pensione, la vita si è allungata e non è qua che ci possiamo dilungare su perché, ma ci arriveremo, perché ce lo dobbiamo mettere in testa. Bisognerebbe andare in pensione a 70 anni, lei dice. Siccome penso ai giovani e penso che se andiamo avanti di questo passo, chi comincia a lavorare oggi avrà dei problemi. Io credo che oggi andare in pensione in prospettiva, 70 anni sia una cosa assolutamente giusta. Il problema è quello, cioè la prospettiva, i diritti acquisiti di chi magari è in pensione, è dove stabilire, diciamo, che ne so, un limite, no? Da adesso si va in pensione a 70 anni, sì, ma là adesso quand'è? Perché uno ha dei diritti acquisiti magari tra 1, 2, 3 anni, 4 anni, o tra pochi mesi deve andare in pensione, dice, perché tocca a me a cominciare ad allungarmi? Ma questo è un po' il problema dell'Italia, no? Guardare sempre il proprio orticello. Dopo il traffico, anche qualche ascoltatore. E allora 800 24 00 24, siate sintetici, cari ascoltatori. Gianfranco da Firenze, buongiorno. Sì, Milan, buongiorno. Dica. Mi sente? Benissimo, dica. Ma senta, io sono molto perplesso, devo dire un po' anche arrabbiato con lei, che seguo tutte le mattine, ma insomma non si può dare voce a queste cose, il presidente, il salvacondotto, ma dico, abbiamo i mercati che ci stanno guardando ogni volta che si respira. dico, proporre una posizione in cui viene un Buttiglione e che propone, voglio dire, la ma scusi, la perché, libertà... perché non si può dare voce? Ma le leggi i giornali, cioè il dibattito con le leggi, ma oggi Repubblica, giornali, cioè, ma lei, c'è ma la ma lei li vede i mercati, scusi, ma certo che li vedo, ma la nostra crisi è una crisi di credibilità, ma ho capito, ma io tutti guardi che mi scusi, noi parliamo di manovra da giorni e giorni sotto ma tutti gli aspetti, cioè, manovra, oggi c'è una questione politica, lo deve capire Mila, altrimenti non se ne esce da questa storia, scusi, ma i mercati stanno guardando ogni minuto quello che noi facciamo e quello che noi vogliamo fare per il futuro, è un problema di credibilità, e questo si esce alla mattina col salvo condotto al Presidente. Ma non è la mattina, ma lei non legge il giornale, è da giorni che si discute di questa cosa. No, vabbè, ma da giorni si discute di questa cosa. Io non dovrei discuterne, perché io sennò sono complice. Non è che non deve discutere, però non deve dare voce a questa. Ecco, non devo che bel sistema democratico. Non devo dare voce a chi la pensa in un certo modo. Perché il sistema democratico, uno che viene alla mattina alle 8 e parla del salvacondotto al Presidente del Consiglio, che io non ho votato, ma le ricordo, è il mio, il suo e quello anche del professor. Ho capito, ma cosa c'entra? Ma io non è che sono d'accordo con Buttiglione. Buttiglione ha fatto un'intervista, Pisano ha fatto un'intervista. C'è gente che dice, scrive anche oggi, c'è gente che sta considerando di fare un Presidente del Consiglio, è una notizia oppure no? No, non devo parlare. Condotto al Presidente del Consiglio. Non si può parlare di salvacondotto. Glielo diremo a Buttiglione, diremo che la sua proposta è una stupidata. Buttiglione lo sa meglio di lei e di me, che è una proposta che non ha senso. Però, e va bene, e se non ha senso, se la proposta non ha senso non farà strada, e quindi ma siccome è una proposta e esiste anche il concetto che sia una notizia. Grazie Gianfranco. Anna Rita da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie di avermi dato voce. Volevo rispondere all'onorevole Santanchè. Posso? Sì, certo, la sente. Ah, grazie mille, signor Milan. Ascolti, volevo dire questo. Ha fatto una domanda. Pensiamo che ancora che qualcuno... Sì, siamo tutti noi che pensiamo, almeno la maggior parte degli italiani, che se andasse via riacquisteremo credibilità. Questa è la sua posizione. È la mia posizione. Ecco, allora, poi un'altra cosa. Più facciamo parlare la signora Santanchè e più perdono credibilità. Quindi la inviti più spesso. Ah, mannaggia ragazzi. Ma è lunedì. Onorevole Santanchè, si sono svegliati gli ascoltatori. Non potevo dare la voce a Buttiglione perché ha dato una proposta strampalata. La invito, se lei vuole, è invitata tutti i giorni, secondo Anna Rita, per far perdere voti alla sua coalizione. Vabbè, ma credo che questo non vada commentato. Invece va commentato sicuramente il fatto che oggi non fa bene tutto ciò che leggiamo e che sentiamo, perché come diceva l'ascoltatore che ha appena chiamato, il problema che abbiamo oggi, come avevo già detto io all'inizio della trasmissione, non è Berlusconi. E il fatto comunque queste cose che poi non sono assolutamente vere, non se ne parla, perché sì, è vero che qualcuno ha fatto un'intervista lanciando quest'idea, ma è un'idea che lì si è fermata, perché chi conosce il presidente Berlusconi non è nel suo carattere. Quindi non è vero che Letta è un delinquente, non è mica un dittatore, quindi... che ha bisogno del salvacondotto. Quindi non è vero che Letta e i confalonieri l'hanno incontrato e gli hanno detto pensaci. Io lo tenderei proprio ad escludere. Senatore Pardi, visto che devo concludere un minuto e mezzo, lei vuole, di fronte a questo interesse sovranazionale, stiamo sbagliando, l'approccio è sbagliato, non bisognerebbe parlare di queste cose in nome di una credibilità da difendere? Chi dice che il problema di credibilità trascura il fatto, come il signore di Firenze, che il grosso maggior problema di credibilità dell'Italia è la incredibilità del Presidente del Consiglio, per cui non ci si può salvare l'anima dicendo ora dobbiamo riacquisire una credibilità. Per riacquisire la credibilità la cosa è molto semplice, bisogna che Berlusconi smetta di essere Presidente del Consiglio, perché lui è solo un pubblicitario, ha raccontato solo balle per 15 anni, la rivoluzione liberale, molti suoi elettori se l'aspettavano per davvero, ma la rivoluzione liberale non è arrivata, anzi è arrivato il contrario, protezionismo a favore dei ricchi, manovre contro i redditi bassi. Tutti sappiamo in economia che se i redditi bassi non hanno niente da spendere, l'economia non riparte, quindi una delle cose fondamentali per la ripresa italiana è proprio liberarsi di Berlusconi, metterci una persona seria, uno che faccia le cose, uno che non racconti balle, uno che non evochi sogni pubblicitari. Dietro il televisore niente, questo hanno scoperto gli italiani. Va bene, adesso noi vedremo oggi se ci sarà questa smentita anche di questo incontro Letta con Fallonieri a Berlusconi, credo che ci sarà in mattinata. Intanto io ringrazio l'onorevole Daniela Santanchè e l'onorevole Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, con anche Rocco Buttiglione che è stato prima con noi. Grazie a tutti, su 24 Mattino, la nostra pagina Facebook continua il dibattito con Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi anche in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. Che dire, vi salutiamo, diamo la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domani puntuali alle 7:20.